l'evasione è qualcosa che c'è sempre stata, che non può essere risolta col tintinio di manette, come qualcuno della sinistra fa intendere, che deve essere combattuta soprattutto facendo vedere ai cittadini che le tasse che pagano, che non sono un diritto divino dello Stato, ma sono semplicemente la contropartita che il cittadino paga allo Stato per i servizi che lo Stato dà al cittadino, siano chieste nella misura giusta. Ed era per questo che io intendevo ridurre al di sotto del 40% l'aliquota che lo Stato chiede ai maggiori contribuenti.